Amore, amore, dormi. Ma tu stai già dormendo. E non ti preoccupare, se resto qui a suonare, a scrivere la canzone. In prigione. Lo so che stai pensando, ma già che stai dormendo. Però se fossi sveglia, tu penseresti che è strano che lui scriva una canzone così. Non è il suo stile questo qui. E forse c'hai ragione, ma quello che volevo è scrivere la canzone più bella anche di te. Stupende le parole, bellissima la musica, per far piacere a me. Non sarebbe giusto, sarei un egoista. In fondo una canzone, in fondo che cos'è? È solo un'impressione, e allora è troppo poco per una come te. E amore, amore, dormi. E non ti preoccupare, se fuori farà caldo, qua dentro sarà il mare. Se fuori farà guerra, qua dentro sarà amore. Sei per me super ricordo. Tu sei quella che ora c'è, c'è stata e ci sarà. Dimmi, non sai che è un viaggiatore, sempre quel ricordo che fa. Scusa se non fermo qui, ma vivo a modo mio e vivo le emozioni, sono così. E non ridere se poi torno sempre qui. Sai perché? Perché tu sei per me. Sì, tu sei per me super ricordo. Super ricordo. Super. Questa è la tua canzone, la prima senza un nome. Non la canterò solo per far capire agli altri che son capace anch'io poi d'amore. Sarà la tua canzone, la prima senza un nome. E adesso svegliati. Tu sei per me il super ricordo. Sei quella che ora c'è, c'è stata e ci sarà. Dimmi, non sai che è un viaggiatore, sempre quel ricordo che tornare fa. Scusa se non fermo qui, ma vivo a... perché.